Dodicesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, dodicesimo canto. Era lo loco ove scender la riva venimmo alpestro, e per quel che veranco, tal ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse, al piano è sì la roccia discoscesa, ch'alcuna via darebbe a chi su fosse? Cotal di quel burrato era l'ascesa, e in su la punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio inver lui gridò: «Forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse? Partiti, bestia, che questi non vene ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella ch'ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella? Vid'io lo minotauro far cotale, e quello accorto gridò: «Corri al varco, mentre che in furia è buon che tu ti cale!» Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io gia pensando, e quei disse: «Tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestial ch'io ora spensi? Or vo che sappi che l'altra fiata ch'i discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata, ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno. Da tutte parti l'alta valle feda tremò sì, ch'i pensai che l'universo sentisse amor, per lo qual è chi creda più volte che il mondo è caosso converso. E in quel punto questa vecchia roccia, qui e altrove, tal fece riverso. Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue in la qual bolle qual che per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia e ira folle, che sì ci sproni nella vita corta, e nell'eterna poi sì mal ci immolle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, secondo ch'avea detto la mia scorta, e tra il piede la ripa ed essa in traccia corrien centauri, armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar, ciascun ristette, e della schiera tre si dipartiro, con archi e asticciuole prima elette. E l'un gridò da lungi: «A qual martiro venite voi che scendete la costa? Ditel costinci, se non l'arco tiro!» Lo mio maestro disse: «La risposta farem noi a Chiron costà di presso. Mal fu la voglia tua sempre sì tosta!» Poi mi tentò e disse: «Quelli è Nesso, che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. E quel di mezzo, ch'al petto si mira, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille. Quell'altro è Folo, che fu sì pien d'ira. D'intorno al fosso vanno a mille, saettando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle. Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse a compagni: «Siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca? Così non soglion farli piedi morti». E il mio buon duca, che già li era al petto, dove le due nature son consorti, rispuose: «Ben è vivo, e sì soletto mostrar li mi convien la valle buia. Necessità il c'induce, e non diletto». Tal si partì da cantare alleluia, che mi commise quest'ufficio novo. Non è ladron, né io anima fuia, ma per quella virtù per cui io movo li passi miei per sì selvaggia strada, danne un de tuoi a cui noi siamo a provo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui in su la groppa, che non è spirito che per l'aere vada». Chiron si volse in su la destra poppa e disse a Nesso: «Torna e sì li guida, e fa cansar s'altra schiera v'intoppa». Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facieno alte strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio, e il gran centauro disse: «E son tiranni che dier nel sangue e nell'aver di piglio. Quivi si piangon gli spietati danni. Quivi è Alessandro e Dionisio fero, che fe Cicilia aver dolorosi anni. E quella fronte c'ha il pelo così nero e azzolino, e quell'altro che è biondo è Opizzo da Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo». Allor mi volsi al poeta e quei disse: «Questi ti sia or primo e io secondo». Poco più oltre il centauro s'affisse sovr'una gente che infino alla gola parea che di quel bulicame uscisse. Mostròci un'ombra da l'un canto sola, dicendo: «Colui fesse in grembo a Dio lo cor che in su Tamisi ancor si cola». Poi vidi gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobb'io. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo. Sì come tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra a più giù prema lo fondo suo, infin che il si raggiunge ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro e Sesto, e in eterno munge le lagrime che col bollor diserra a Rinier da Corneto, a Rinier pazzo, che fecero alle strade tanta guerra. Poi si rivolse e ripassossi il guazzo. Fine del 12° canto dell'Inferno.